Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mi unì a quel gruppo di persone per quello che fu il più bello dei concerti a cui mai più assistetti. Non riuscivo a vedere bene dentro, ma la mia vista, tenuta a bada dal mio udito, non reclamava. Mi chiamo Gaspare, vivo a Palermo, lavoro in un centro oncologico come amministrativo e ho due bambini piccoli, di 5 e 3 anni. Il 4 ottobre del 1999 avevo 24 anni. Una fidanzata che ora non so più che fine abbia fatto, una macchina che era la Twingo di mia madre e stavo facendo il servizio civile alla cooperativa Primavera di Cuggiono. Il millennio si stava chiudendo e io cercavo di capire che cosa fare della mia vita. Qualche cosa in teatro già l'avevo portato a casa, ma non ero così convinto. Avevo sospeso l'università per un anno in modo da non pagare inutilmente una tassa che non mi sarebbe servita, visto che il servizio civile mi impediva di fare altro. In quell'anno, chiuso in quella cooperativa per ragazzi con disabilità varie, avevo ascoltato un sacco di radio ed era forse la prima volta che scoprivo che la radio non era solo quella cosa fatta di musica e qualche parola smozzicata tra un brano e l'altro. Ero andato da un amico che lavorava già in una piccola radio di Milano e gli avevo chiesto di portarmici perché volevo vedere come funzionava una vera radio e, nel caso, se io ci avessi potuto fare qualcosa. Di lì a poco sarei andato in diretta ad un programma notturno senza nemmeno sapere accendere un microfono. Era più o meno la fine del 99. In giro per Milano cominciavi a vedere dei cartelloni enormi con un disegno che era a metà tra una bistecca e un grosso polmone verde. Scoprì solo dopo essere un orecchio. E sotto la scritta Radio 24, la radio che ti serve. Nella mia ingenuità pensai che se c'era una radio che nasceva nello stesso momento in cui in me nasceva la voglia di fare la radio, bastava fare 2 più 2 e io ero la persona giusta per loro, così come loro erano la radio giusta per me. Quindi inviai un curriculum ad un indirizzo trovato non ricordo più dove o come e insieme mandai anche una specie di lettera motivazionale molto imbarazzante, quindi ora non la rivelerò. Ricevetti in risposta una mail abbastanza cortese che diceva che nel caso fosse servito mi avrebbero contattato loro. Iniziai ad ascoltarla quella radio, devo dire anche con un po' di rancore perché loro non avevano capito quanto io fossi giusto per quella radio. Oggi è il 3 di ottobre del 2014, sono passati, domani in realtà, passano 15 anni da quel giorno. Io ho fatto cose molto diverse, questa radio anche, ma oggi siamo qui e in qualche modo compiamo 15 anni insieme. Auguri a lei e a voi che l'ascoltate da 15 anni. Buongiorno a tutti, sono le 16:11:30 in punto, questa è Radio 24, se non avete capito. Io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Voi siete qui. Oggi però, come vi dicevo, è il 3 di ottobre, lo saprete, insomma l'avete realizzato, essendo le 16, se ancora le 16 non avete capito che giorno è. Eccolo qua, è il 3 di ottobre. Domani però è il 4 e Radio 24 compie formalmente 15 anni. Sono 15 anni che questa radio è accesa, è in onda, 15 anni fa partiva un suono strano, poi c'era una voce dell'allora direttore che era Lia Zamboni che raccontava che tipo di progetto era. Io me la ricordo com'era questa radio all'inizio, avevo 15 anni in meno, ero molto diverso io ed era molto diversa anche la radio. Voi ve la ricordate? Che cosa avete ascoltato come primo programma di Radio 24? Cercate di fare mente locale, cercate di ricordare, magari non l'anno, però la prima volta che vi siete accorti che c'era una radio che era solo di parola e che raccontava delle cose, di informazione, ma non solo, di attualità, di approfondimento, di spettacolo, di sport ovviamente. Che cosa avete sentito la prima volta? 349-238-6666, non doveva essere per forza il primo messaggio iniziale, anche perché beccarlo era abbastanza complicato. Però il primo suono che avete ascoltato da questa radio. 349-238-6666. Noi, giusto perché oggi appunto in qualche modo festeggiamo il compleanno di Radio 24, facciamo una storia, raccontiamo una storia, che è la storia di Gaspare, che in realtà è piuttosto musicale, quasi in controtendenza. Vi ricordo però il numero che è sempre 349-238-6666, ma abbiamo anche un nostro personale profilo Facebook, e voi siete qui Radio 24, e profilo Twitter che voi siete qui R24. Cercate di ricordarvelo, era strano sentire una roba così, si sentiva solo musica all'epoca, 15 anni fa, sentivi più o meno i brani, che ne so, Vamos a la Playa, che non so se era di 15 anni fa o cosa, però cosa avete sentito come primo suono di questa radio? 349-238-6666. Spostiamoci in un'altra epoca, andiamo negli anni 80, siamo a Parigi e Gaspare scopre un suono incredibile. Era il 1983 e in Montmartre è stato amore a prima vista. Ricordo ancora quella mattina. Salì le scale curioso dello spettacolo che la città mi avrebbe riservato una volta che avrei potuto guardarla dall'alto. Ero in gran forma a quei tempi. Feci i gradini due o tre alla volta e in men che non si dica ero in cima. Le mie spalle verso la chiesa del Sacro Cuore, i miei occhi dominanti sull'intera metropoli. Sorrisi tra me e me, pensando che se questo era il quartiere degli artisti, avevo già, tra les artistes, visto il più grande. L'enorme chiesa sovrastava tutto, ma ciò che scuoteva le mie emozioni era l'atmosfera di quei vicoli, di quelle stradine, i suoi abitanti e i tanti visitatori, i musei, la scuola, tutti i miei studi, le mostre, le conferenze, niente fino a quel momento era stato altrettanto capace di mostrarmi come su un palmo di mano la bellezza e l'essenza delle cose. Questo viaggio a Parigi è stato il mio primo viaggio, fortunatamente è un'esperienza un po' particolare come viaggio che mi ha stimolato molto per quelli che ci sono stati successivamente. Continuai a camminare e proprio nel momento in cui credevo di aver toccato l'apice della mia estasi pensai di avere delle allucinazioni uditive. Non avevo a suo tempo la conoscenza della musica che ho oggi, ma fu proprio quel giorno che sentii con le mie orecchie quello che non mi vergogno di definire il canto degli angeli. Istintivamente fu con gli occhi che cercai di identificare l'origine di quel suono. E poco più avanti, davanti ad una persiana turchese che successivamente seppi essere la casa di un famoso pittore locale, si era stretto un gruppo numerosissimo di persone. Mi unii a loro per quello che fu il più bello dei concerti a cui mai più assistetti. Non riuscivo a vedere bene dentro la casa, ma la mia vista, tenuta a bada dal mio udito, non reclamava. Non saprei dire esattamente quanto durò. Il pittore, il padrone di casa, lamentò velocemente qualcosa in un incomprensibile francese dai toni però molto comprensibili. La gente andò via, mentre io, probabilmente da italiano indiscreto, avanzai, raggiungendo l'ingresso di quella persiana. Sapevo che la mia presenza era sgradita, ma dovevo vedere chi aveva suonato quella musica. Ed eccolo lì, a portata dei miei occhi, il pianoforte. Silente sembrava incapace di tutte quelle acrobazie sonore. E seduto, o meglio, appollaiato su uno strano sedile per pianoforte, una sorta di gobbo di Notre Dame. Piccolo, sgraziato, salutava e ringraziava quanti lo applaudivano abbozzando un sorriso. Mi allontanai conservando nelle mie orecchie e nei miei occhi il ricordo nitido di quegli istanti di musica e di quel piccolo uomo deforme capace di fare cantare gli angeli. Fino a diversi anni da quel primo incontro non sapevo chi fosse quell'uomo un po' particolare. L'ho scoperto poi casualmente dopo anni davanti alla televisione ed era Petrucciani. 6 gennaio del 1999, 16 anni dopo. Notte fonda, sul divano di casa cerco di scacciare con il telecomando in mano dei pensieri bui sopra la mia testa. I canali sul televisore scorrono automaticamente, senza che nessuno di questi venga coscientemente considerato. Istintivamente però, a un certo punto, torno indietro di due canali. C'è un pianoforte a coda e lo stesso gobbo di Notre Dame in smoking, sullo sgabello, a far cantare gli angeli. E in sovrimpressione la scritta «Addio a Michel Petrucciani». Davanti alla banchina di un porto, Gaspare, in una giornata d'inverno, perché il cielo è abbastanza è azzurro ma è abbastanza grigino, da quel grigio invernale. Lui è bello bardato, ha una cuffia in testa e guarda non so dove oltre l'obiettivo. Pronto Gaspare? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Ma molto bene, molto emozionato e contento di parlare con te. Beh, mi fa piacere, grazie a te per la storia che ci hai mandato, che appunto è una di quelle, io lo chiedevo anche sul profilo Facebook oggi, è una di quelle occasioni in cui ogni tanto raramente ci si trova ad assistere gratuitamente a questo dono musicale, no? Qualcuno che suona, qualcuno che canta, magari in questo caso in una casa o magari dietro le quinte di un teatro, tu passi di lì e ti becchi questa roba che comunque è diversa rispetto a andare a un concerto, pagare, sedersi per sentirla, no? È proprio una specie specie di dono incredibile. Poi tra l'altro a Montmartre, quindi a Parigi, giusto? Sì, sì, sì, anche se comunque condivido quello che dici, perché un po' ovunque un'esibizione che un artista fa perché ne sente la necessità, al di là dell'impegno che può essere più professionale, ha un sapore diverso. Un artista anche per strada o che comunque sta suonando per il piacere di farlo, sicuramente ha un sapore diverso e più profondo. Tu, Gaspare, non l'hai più visto Petrucciani suonare da qualche parte, no? No, no, assolutamente. Io, come ho scritto, poi ho saputo che era lui casualmente proprio quando ho scoperto che è morto in televisione. E non hai visto invece un documentario su di lui che è uscito, credo, un paio d'anni fa? È uscito da un inglese, mi sembra che ha fatto un documentario, ma no, non l'ho ancora visto. Guarda, è un gran film, se ti capita, insomma, poi visto che l'hai visto da vicino, non è male. Gaspare, cosa fai nella vita esattamente? Io appunto sono un impiegato amministrativo in una clinica oncologica. A Palermo? A Palermo, sì. Perché tu sei proprio palermitano pieno. Sì, assolutamente, sono palermitano di nascita, tranne qualche viaggetto, qualche periodo fuori, tra cui anche dalle tue parti, dove a Brescia c'è un pezzo di cuore, e quindi perché ho vissuto un po' di anni lì, diciamo, poi sono palermitano. Ok, hai una famiglia, hai dei figli anche, giusto? Ho due figli, sì, una compagna, Alessandra, e due figli, Havana e Moreno. Havana? Sì, sì, perché un altro pezzo di cuore è a Havana, Cuba, e quindi sentivo la necessità di chiamarla così. E Moreno invece? Moreno perché comunque è un nome latino che mi piaceva da sempre molto, non mi ricordava niente, quindi pensavo che se dovevo dare un nome a mio figlio preferivo dargli un nome che non mi ricordasse nessun'altra persona. E invece, scusami, credo che tu sia il primo Gaspare con cui parlo, non dico nella vita ma quasi. Da dove arriva questo nome? Te l'hanno spiegato i tuoi? Ma penso che arrivi dai famosi Terre Maggi, e quindi me lo sono dovuto beccare, oltre che da mio nonno. Gaspare, certo, il nonno, in quel caso è facilissimo, si chiamava così, esatto. Il nonno, quindi mi chiamo così anch'io. Gaspare, quando ascolti la radio tu che lavori in un ufficio? In ufficio ha un volume che rispetto un pochettino i vicini di ufficio, lo ascolto quasi sempre e vi ascolto quasi sempre. Tra l'altro tu per me sei come un amico, perché in un periodo piuttosto complicato della mia vita ho scoperto voi siete qui e ti ascoltavo quasi, cioè, ogni sera come un momento di boccata d'ossigeno. Ma te la ricordi la primissima volta che hai scoperto questa radio? Che cosa sì. C'era in onda? Sì, io ricordo che stavo cambiando per caso canale e ascoltai proprio te che leggevi il testo di una storia. Storia, no? E quindi chiesi sul sito di cosa si trattava. Una persona mi rispose che non eri tu, che non era un tossero un tuo libro, ma che mi ha spiegato un po' come funzionava il programma. Okay. E quindi da allora diveni dipendente da Radio 24 e da Matteo Caccia. Va bene, perfetto, ti abbiamo portato a casa. Gaspare, io ti ringrazio per la storia e in bocca al lupo per tutto. Grazie. A presto. Ciao Gaspare. Ciao. Come dicevo prima, ogni volta che mi è capitato di sentire una musica gratuita, intendo dire non su un palco o davanti ad uno schermo acquistata tramite un CD, quando ho quasi rubato quelle note che si alzavano nell'aria e provenivano da chissà dove, ho sempre pensato che quello fosse quasi come trovare un quadrifoglio o come scoprire una coccinella posata sulla propria mano da far volare via. La prima volta mi è successo una decina di anni fa, a Spoleto, in Umbria. Era estate ed io ero lì per fare un'audizione per uno spettacolo. Spoleto è un posto magnifico, è un po' difficile da raggiungere e per questo motivo è quasi protetto. Nell'alberghetto in cui avevo dormito la mattina ero stato svegliato molto presto da alcuni versi che definire canto sarebbe un tantino esagerato. Poi scoprì che si chiamavano gorgheggi o vocalizzi ed erano un modo per scaldarsi la voce. Perché proprio nella stanza a fianco alla mia stavano due giovani cantanti liriche che si preparavano per lo spettacolo della sera. Perché Spoleto è anche sede di un festival piuttosto conosciuto che si chiama il Festival dei Due Mondi, in cui si può vedere danza, teatro, musica e opera lirica, appunto. Quando uscii dalla doccia quella mattina e aprì la finestra, nella mia stanza entrò esattamente questo suono qui. Io non sapevo che cosa fosse e né da dove venisse, però ho molto bene in mente la sensazione di sospensione e di regalo che provai quella mattina. Non ho mai più cercato nemmeno che cosa fosse quel canto, e solo oggi che ho voluto inserirlo in questa puntata ho scoperto che è un'aria che si intitola Parigi o cara, che è tratta dalla Traviata di Giuseppe Verdi, e torno probabilmente mi tirerebbe le orecchie. Quel provino alla fine andò bene e io mi fermai a Spoleto 2 mesi tra prove e spettacolo. Quella fu la prima volta. La seconda invece, la seconda che mi è capitato di ricevere in regalo un canto come quello, ero in un posto e in una situazione totalmente diversa. È una storia che già ho raccontato quando raccontavo la mia storia qualche anno fa. Mi trovavo a Procida e cercando le indicazioni per arrivare a casa della persona che stavo cercando, perdendomi nelle vie del paese alto di Procida, che si chiama Terra Murata, mi trovai a passare inconsapevolmente vicino al Conservatorio delle Orfane. Un edificio del 1600, con le mura in tufo, da cui sentii uscire una canzone leggera come l'aria, e lì mi sono fermato ad ascoltarla fino alla fine. Fine, dalla storia di Gaspare, come al solito, ho capito un po' di cose. Ho capito che, primo, Parigi forse è un po' inflazionata, ma vale sempre la pena. Secondo, le musiche che escono dalle case hanno un fascino che quelle che escono dai teatri non sempre hanno. Terzo, il Gobbo di Notre Dame non è solo un musical di bassa lega. Quarto, Michel Petrucciani era un genio assoluto. Quinto, quando capirò il jazz, sarà sempre troppo tardi. Ci è capitato tanti anni fa in Turchia, mi scrive Paola, a proposito del sentire delle musiche rubate. Eravamo in un piccolo campeggio che si affacciava sulle tombe rupestri di Dalian, e in lontananza una musica dolce, una nenia che ti faceva sentire bene. Siamo andati avanti per mesi nel ripetere quel ricordo e quella musica. 349-238-6666, ma anche il profilo Twitter, scrive Teresa, voi siete qui a R24, quando l'ho conosciuta? La radio vendeva... No, quando ha conosciuto me, mi dà del lei, grandissima. Allora, quando ci siamo conosciuti, vendeva tutto, e si è comprato per sempre il mio cuore. Teresa, mi sto quasi sciogliendo. Prima di sciogliermi completamente, però, prima di salutarvi, voglio darvi appuntamento al Salone Nautico di Genova domenica, perché facciamo una sorta di live, facciamo un live di quelli che ci sono di solito qui a fine giugno, lo facciamo là, parlando di mare. E oggi Miriam mi ha consegnato questa mail di Giulia che dice così. Il titolo della mail è: i racconti del live sono adatti ai bambini? Buongiorno, ci siamo iscritti al live di domenica al Salone Nautico. Io, mio marito e mia figlia di 9 anni, che è un'appassionata delle vostre storie. Di solito, prima le ascoltiamo noi e poi gliele facciamo ascoltare in podcast. Ma alcune le censuriamo perché giudichiamo che non siano adatte a lei. Ora, vorremmo chiedervi un consiglio. In base alle storie che avete deciso di raccontare al live, possiamo, secondo voi, portare con noi nostra figlia? Perdonate gli eccessi di premura a cui arrivano certi genitori, ma è così. Grazie della risposta, Giulia. Giulia, innanzitutto io avrei bisogno di capire in base a cosa tu censuri le storie di Voi siete qui a tua figlia, perché devo dire che per me casco dal pero leggendo questa mail, nel senso che ho sempre pensato che andassero bene per tutti le storie. Evidentemente non è così, ma la risposta è assolutamente sì. Ci sono 10 storie di mare che racconteremo domenica alle 17 in punto dal Teatro del Mare di Genova. Insomma, lo vedete, entrate al Salone Nautico e lo trovate lì in basso a sinistra, ci siamo noi, poi Paolino pomperà un po' di musica così capite dove siamo. alle 17 in punto, 10 storie. Se siete tra i 150 che hanno preso gli ingressi e quindi entrate gratuitamente al salone e vi sciroppate anche live, bene. Se invece non siete riusciti a prendere il biglietto e magari capitate da quelle parti e avete voglia di venire comprandovi il biglietto del Salone Nautico, noi siamo lì e live a quel punto è chiaramente gratuito. 10 storie che parlano di mare, parlano di vela, ma parlano anche di gente trovata per caso in mezzo al mare perché era caduta da una moto d'acqua. Come al solito andiamo un po' da tutte le parti con le storie, ci sentiamo e ci vediamo soprattutto domenica alle 17. Lunedì invece ci sarà in onda, per chi non è venuto, per chi non poteva venire e non ha trovato i biglietti, una mezz'oretta di estratto, cioè alle 16, del meglio di quel live di domenica, ma noi siamo lì alle 17 in punto. Grazie a Paolino Corleoni, grazie a Miriam Lucchetti che è arrivata ufficialmente alla nostra redazione, si è vestita da Margherita Hina quest'oggi, grazie a Tiziano Bonini, grazie soprattutto a Gaspare, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Io sono sempre Matteo Caccia e quella di lunedì non sarà la storia di un unico ascoltatore, ma un estratto del live che faremo domenica al Salone Nautico di Genova, in cui raccontiamo storie di mare.